24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati a questa nuova edizione di 24 ore in Europa da Roberta Pellegatta. Italia e Germania affrontano unite le difficoltà dell'Unione Europea, così il premier Mario Monti a Villa Madama a Roma, dove ieri ha incontrato Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha affermato: io e Monti abbiamo sempre trovato un'intesa. Da Roma Elisabetta Fiorito. L'Italia conferma che non si avvalerà dello scudo anti-spread, lo ribadisce il premier Mario Monti al termine del vertice bilaterale Italia-Germania, ma sentiamo il premier. Perché l'Italia non presenta domanda per essere sostenuta? Perché l'Italia non ha bisogno di sostegno per far fronte al finanziamento del suo disavanzo. Però l'Italia ha, lo sappiamo, come risultato di decenni di politica di bilancio non rigorosa in un passato lontano, ha una grande quantità di debito pubblico. Monti parla anche del decreto sulla spending review in vista del Consiglio dei Ministri di domani. Stiamo procedendo, dice, in un esercizio impegnativo ma molto importante di revisione e riduzione della spesa pubblica, sia per evitare sprechi ed evitare anche l'aumento di 2 punti dell'IVA. La spending review, sostiene Monti, creerà più posti di lavoro per i giovani. È inaccettabile la disoccupazione giovanile al 36%. Soddisfatta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. Io e Mario abbiamo sempre trovato l'intesa, dice, e riguarda l'Europa spiega: se i partner europei non stanno bene, ne risentiamo anche noi in Germania. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Dunque a Roma sembra essere tornata armonia tra Monti e la Merkel dopo le frizioni del Consiglio europeo di Bruxelles. Ma l'opinione pubblica tedesca non perdona alla cancelliera quelle che ritiene essere state troppe concessioni. Da Bruxelles Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore, al microfono di Simone Spezia. Soprattutto l'opinione pubblica tedesca, che è molto rigida, insieme ai giornali che al termine del vertice hanno lanciato contro la Merkel una salva di commenti assolutamente negativi: ha perso, è stata messa con le spalle al muro. E certamente, diciamo, un anno delle elezioni, questa non è un buon incentivo a, diciamo, insistere sulla politica europea della solidarietà, dei salvataggi. È abbastanza così incisiva la dichiarazione del leader della CSU, che è l'alleato della Merkel insieme ai liberali, che ha detto: non possiamo continuamente dire di sì, basta con i salvataggi, con chiaro riferimento alle decisioni prese al vertice, quindi salvataggi delle banche spagnole con riforma della legislazione europea abbastanza radicale e poi meccanismo anti-spread per l'Italia. Ora, questo fa parte un po' del gioco delle parti, delle polemiche che seguono in Europa qualsiasi decisione, ma non c'è dubbio che questa atmosfera non favorirà o perlomeno complicherà i negoziati che ci saranno il 9 di luglio tra i ministri dell'Eurogruppo, proprio per mettere in atto le decisioni del vertice, che invece sono stati ovviamente degli accordi di massima. Una buona notizia arriva intanto dall'Olanda, che è reticente, ma al contrario della Finlandia, non si oppone in tutti i casi all'acquisto di titoli di bond sul mercato secondario da parte del fondo Salva Stati in funzione anti-spread. Lo ha precisato il ministro delle finanze olandese: bisogna guardare all'efficacia delle misure, ha detto il ministro. Intanto, dopo 3 giorni a rialzo, segno meno ieri per le borse del vecchio continente. Seduta nervosa per i listini europei, che chiudono negativi in attesa della riunione BCE di oggi. La Banca Centrale Europea, come quella cinese, potrebbe decidere infatti per un nuovo taglio dei tassi, destinato a stimolare un'economia sempre più appesantita dalla crisi dei debiti sovrani. Così, con Wall Street chiusa per l'Independence Day, le borse europee hanno interrotto una striscia positiva di 3 sedute. A Milano il FTSE MIB ha chiuso in rosso dello 0,78%, Londra e Parigi hanno registrato meno 0,1% e Francoforte meno 0,2%. A Piazza Affari, ondata di realizzi sui titoli bancari e assicurativi, a partire da Intesa San Paolo, meno 3,1%, e BPM, meno 2,6%. Recuperano invece terreno le utility dopo le vendite dell'altro ieri. Le migliori invece sono Mediaset, più 5,4%, grazie all'ipotesi di una partnership nella Pay TV, e Fiat, più 4,8%, che cavalca il balzo delle vendite in USA e Brasile. Sul resto del listino, Gemina, più 4,5%, festeggia la vendita dei duty free ai francesi di Aelia per 230 milioni. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. Con 478 no, 39 sì e 165 astensioni, il Parlamento europeo ha bocciato la ratifica del controverso trattato internazionale ACTA sulla contraffazione di beni materiali e la tutela della proprietà intellettuale su Internet. L'Europarlamento dice no ad ACTA, l'accordo anticontraffazione che ha sollevato numerose polemiche in Europa. La mobilitazione popolare con milioni di firme contro l'intesa inviata al Parlamento europeo ha portato Strasburgo a seguire le conclusioni del relatore, l'eurodeputato socialista britannico David Martin. ACTA è importante per combattere la pirateria, ma il testo resta troppo vago e minaccia le libertà individuali. Inutile la difesa in extremis della Commissione europea. ACTA non è un attacco alla nostra libertà, è una difesa dei nostri mezzi di sussistenza, aveva detto in plenaria il titolare al commercio estero Karel de Gucht. Già ben 5 commissioni europarlamentari avevano bocciato l'intesa. La bocciatura finale del Parlamento europeo implica che il trattato ACTA non potrà diventare legge né nell'Unione né nei Paesi membri. Tra i punti più oscuri contestati dagli europarlamentari, l'assenza di Cina, India, Russia e Brasile tra i firmatari dell'accordo. Molti di questi paesi sono tra i principali produttori di contraffazione. In secondo luogo la presenza nel testo di sanzioni che potrebbero limitare la circolazione di informazioni sul web, violando i diritti fondamentali. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un business da 17 miliardi, gestito da 296 clan, 6 in più dell'anno precedente. Lo sostiene il rapporto Ecomafie 2012 di Legambiente e l'ultimo rapporto dell'Agenzia Antifrode dell'Unione Europea descrive il 2011 come un anno record per i recuperi di fondi strutturali nella storia della lotta europea alla corruzione. Ma sulle Ecomafie sentiamo il presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza. La situazione è allarmante per due o tre motivi. Il primo perché sono aumentati il numero di reati ascrivibili alle ecomafie. Sono passati da 30.000 dell'altro anno a 33.000 nel corso del 2011, diciamo. E questo ovviamente in parte è dovuto alla migliorata capacità delle forze dell'ordine e della magistratura di intervenire, in parte però anche al fatto che è aumentata, diciamo, l'infiltrazione delle ecomafie nella economia reale. In una fase di crisi economica questo è un dato allarmante. E poi c'è un secondo problema, nel senso che accanto alle ecomafie sta sempre più emergendo una dimensione di corruzione diffusa, che è un fenomeno generale del paese, ma anche in questo settore comporta gravi problemi. È ufficiale la scoperta della particella di Dio, il bosone di Higgs, grazie al quale ogni cosa ha una massa. È un momento indimenticabile per la fisica, forse lo ricorderemo come l'ora X. Oggi infatti in un'atmosfera elettrica i fisici del CERN hanno comunicato gli ultimi risultati della loro caccia alla particella di Dio, il bosone di X. Sono stati sobri, nonostante il palpabile entusiasmo. Hanno annunciato che è stata scoperta una particella che sembra essere il bosone di X, ma che allo stato attuale potrebbe ancora essere qualcosa d'altro. Di certo i sofisticatissimi e giganteschi apparati del CERN hanno captato la firma di qualcosa di mai osservato prima e c'è meno di una possibilità su un milione che si tratti di un abbaglio. Oggi è il giorno della celebrazione, ma da domani la fisica affronterà una nuova grande sfida: guardare in faccia il nuovo venuto e verificare ogni dettaglio del suo volto. Bisognerà capire se è esattamente come i fisici se lo aspettavano e in caso contrario vedere in cosa è diverso. Basterebbero dettagli minimi per cambiare il modo in cui gli scienziati pensano che funzioni l'universo. Alcuni indizi fanno pensare che queste differenze possano davvero esserci, ma anche se la particella di Dio risulterà essere esattamente come si pensava, i fisici non potranno dormire sonni tranquilli. Resterà da rispondere a grandi interrogativi. Ad esempio, si dovrà capire cosa sono le misteriose materia oscura ed energia oscura che pervadono l'universo. Barbara Gallavotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ginevra. In chiusura la cronaca ci porta in Germania, sfrattato, si barrica in casa e uccide 4 persone, poi si suicida. È successo a Karlsruhe. Tutto inizia alle 9 del mattino, quando arriva una chiamata alla polizia. Da un appartamento si è levato un rumore di spari. Arrivano le forze speciali e circondano l'intero quartiere. Si scopre infatti che un uomo ha sequestrato l'ufficiale giudiziario arrivato per rendere esecutivo lo sfratto. Con lui il fabbro chiamato per forzare la porta d'ingresso dell'appartamento e due persone che si trovavano sul posto. C'è anche un team di negoziatori che però non riesce a stabilire alcun contatto con il sequestratore. Intorno a mezzogiorno si decide per l'intervento delle teste di cuoio. Nell'appartamento vengono ritrovati 5 corpi. Uno è del sequestratore che la strage, secondo gli investigatori, l'aveva pianificata da giorni. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Daniele Terruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.